Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Figli di Scozia, io sono William Wallace e ho dinanzi agli occhi un intero esercito di miei compatrioti decisi a sfidare la tirannia. Siete venuti a combattere da uomini liberi e uomini liberi siete. Senza libertà cosa farete? Combatterete! Lo avete sentito, il leggendario incipit del discorso con cui William Wallace, interpretato da Mel Gibson, incitava il suo esercito contro gli invasori inglesi nel celebre film Braveheart. Proprio verso la Scozia, proprio verso le Highlands, ci chiedono di guardare oggi gli dei dell'Olimpo e dello sport, perché proprio con gli orgogliosi scozzesi incrocia in questi giorni il destino una fetta dello sport azzurro. L'Inter, come sapete, che è impegnata nei sedicesimi di Europa League contro il Celtic Glasgow, e la nostra nazionale di rugby che il 28 febbraio sarà di scena a Edimburgo, nel tempio di Murrayfield, proprio contro la Scozia, nella terza giornata del Sei Nazioni. Comunque vada a finire, bisognerà sudarsela fino alla fine, perché gli eredi di William Wallace davvero non mollano mai. Agonizzanti in un letto, fra molti anni da adesso, siete sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni che avrete vissuto a partire da oggi? Per avere l'occasione, solo un'altra occasione, di tornare qui sul campo ad urlare ai nostri nemici che possono toglierci la vita, ma non ci toglieranno mai la libertà! Alba! E allora scendiamo subito in campo, quello da rugby, e che risuonino le cornamuse. Due brutti KO contro l'Irlanda a Roma e l'Inghilterra a Twickenham e la trasferta in Scozia in vista. Partenza tutta in salita quella dell'Italia nel Sei Nazioni 2015, tanto che la stampa specializzata anglosassone ipotizza, a volte chiede, l'esclusione degli azzurri dal torneo. E dire che era cominciata in tutt'altro modo la nostra avventura nel rugby che conta, e proprio contro la Scozia. È il 5 febbraio del 2000 quando l'Italia fa il suo esordio nel Sei Nazioni. A Roma, sul prato del Flaminio, davanti a 40.000 spettatori entusiasti, gli azzurri ospitano la Scozia che l'anno prima si è addirittura aggiudicata il torneo. Dopo un inizio frenato dall'emozione, l'Italia del tecnico neozelandese Brad Johnstone si sblocca su piazzato del grande Diego Dominguez, che prende per mano la squadra segnando, con 3 drop e 7 punizioni, ben 30 dei 34 storici punti azzurri. Suggella il trionfo al 78esimo, una meta di De Carli. Gli scozzesi attoniti sono sconfitti 34-20. Si finisce a centrocampo come si era cominciato. Gli azzurri in lacrime, tutto lo stadio a cantare l'inno di Mameli. Riviviamo quello storico pomeriggio con due ospiti d'eccezione. Giancarlo Dondi, oggi presidente onorario della Federrugby, è stato il presidente che guidò il nostro rugby all'approdo nel Sei Nazioni. Grazie presidente per essere oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie. A 35 anni è uno dei simboli della nostra palla ovale, in campo oggi come già in quel leggendario pomeriggio del 5 febbraio del 2000 a Roma. Mauro Bergamasco, benvenuto a Olimpia. Prego. Allora presidente Dondi, a dir poco scettici britannici e francesi prima di farci entrare in questo benedetto Sei Nazioni, vero? Non parliamo di scetticismo, parliamo che non ci credevano per niente, cioè a un certo punto pensavano che noi bleffassimo, cioè che noi praticamente avremmo cercato di entrare nel grande rugby, però sostanzialmente dietro mancava la cosa più importante, la qualità la qualità del nostro rugby, no? Naturalmente è stata molto difficile, è stata programmata, è stato fatto un progetto dove la cosa più difficile è stata sicuramente convincere un gruppo di persone, compreso dirigenti, tecnici e giocatori, che dovevamo cercare di tentare di fare questa grande impresa. Quale fu secondo lei il momento decisivo per convincere finalmente i maestri del rugby ad aprirci le porte del torneo? Quando abbiamo battuto la Francia a Grenoble. A quel punto è stata la concretizzazione e abbiamo cominciato veramente a crederci tutti quanti che potevamo entrare dentro, anche perché avevamo già battuto la Scozia, avevamo già battuto la Scozia a Treviso, avevamo battuto l'Irlanda a Bologna, avevamo già battuto delle altre squadre importanti, ma battere la Francia nel 97 a Grenoble è stato quello che ci ha convinto tutti quanti che eravamo sulla strada giusta, che probabilmente valeva la pena continuare. Veramente abbiamo fatto delle cose, pensarci adesso, che sono incredibili, con la forza di volontà di un gruppo, perché non era uno, era un gruppo di persone che ci ha creduto, e questo qua è stato quello che ha sprigionato questa grande forza per fare il salto di qualità. E poi eccolo, quel pomeriggio del Flaminio di 15 anni fa, la Scozia, campione, sconfitta dall'esordiente Italia. Che incredibile proprio. Ero con allora presidente dell'International Board, non più, che proprio è stato un po' il garante del nostro ingresso nelle Sei Nazioni, perché lui aveva avuto modo di venire giù in Italia più volte e di vedere quello che stavamo facendo e di comprendere bene proprio questa nostra volontà di voler arrivare a tutti i costi. È veramente stata una giornata incredibile. Abbiamo sorpreso, diciamo, il mondo rugbistico, e che purtroppo poi non ha mica avuto un grande seguito. Poi abbiamo comunque sono cresciuti, visto la Francia ha impiegato molto più tempo quando è entrata nelle Sei Nazioni a vincere di quanto abbiamo impiegato noi. Mauro Bergamasco, tu che eri in campo, che atmosfera c'era in squadra, che emozioni nell'aria? Beh, anche i veterani di quella squadra, della squadra italiana, erano novità anche per loro, quindi come se fossero stati tutti quanti giovani, novelli dell'esperienza. E fu una partita molto molto importante, molto intensa, e alla fine, quando l'altro fisco alla fine, che effettivamente avevamo vinto la partita, ci fu qualche secondo di silenzio perché non ce ne eravamo resi conto. E quindi quello dimostra un pochettino quello che era l'attaccamento e la volontà di dare tutta questa... In questa giornata particolare, che è l'esordio della squadra italiana nelle Sei Nazioni, che abbiamo saputo insomma incorniciare una bella vittoria. Sorpresi voi, figurarsi gli scozzesi, immagino, vero Mauro? Beh, sicuramente non erano sorridenti, immagino, perché comunque perdere, sebbene fuori casa contro l'ultima arrivata del torneo, comunque perdere in generale in uno sportivo non piace mai. Immaginiamo la vincente ancora in carica che perde la prima partita delle Sei Nazioni contro la nuova Cenerentola, diciamo, del torneo in quel momento. Quindi sicuramente non deve essere stata una settimana facile per il proseguo del torneo. Presidente Dondi, al suo fianco in tribuna un ospite davvero speciale, certo non divertita da quello che aveva visto in campo, è vero? Ma io mi ricordo la faccia della principessa Anna. La parte della principessa Anna è stata molto gentile, molto carina, roba del genere, ma veramente era stravolta, perché era venuta sicuramente per festeggiare la prima uscita della Scozia dopo aver vinto ed edizione precedente, invece è andata a casa ma così incredula, direi. E la meta di De Carli se la ricorda, Presidente? Altro che se la ricordo. Ricordo, c'ho la foto, c'ho l'ingrandimento che porto sul mio tavolo perché è veramente incredibile, incredibile. Ma poi è partita, ricordo il grande Dominguez che dominò quella partita lì, veramente era una grande squadra che però si è persa, ha avuto un momento di confusione lì durante la Coppa del Mondo del 99, no? Ecco. Dopo poi chi è rimasto si è ripreso e ha avuto questa grande soddisfazione di debuttare nelle Sei Nazioni con questa vittoria. Presidente Dondi, tanti bei ricordi, ma oggi addirittura i britannici minacciano di escluderci dal Sei Nazioni. Qualcheduno pensa che l'Italia possa essere sostituita da qualcun altro. Prima di tutto non vedo squadre che siano in grado di sostituire l'Italia nelle Sei Nazioni in questo momento. Poi, fino a quando l'Italia riuscirà a attirare il pubblico che attira nei campi fuori quando giochiamo esterni e in Italia, è sempre uno spettacolo, è sempre un qualcosa di importante. Poi non dimentichiamo che siamo una nazione con oltre 60 milioni di abitanti, insomma, vediamo quanto siamo cresciuti come rugby. Chiaramente abbiamo degli spazi enormi ancora, siamo all'inizio, non è che siamo ancora. Oggi però si sente parlare di rugby per strada, cose che in altri tempi eravamo solamente in pochi che conoscevano questo sport, insomma, ecco. Io sono convinto che non ci siano pericoli di questo genere qua. Mauro Bergamasco, tu dal campo come la vedi? No, guarda, secondo me non mi preoccupa nemmeno. Io credo che l'Italia si sia meritata questo torneo e le polemiche che ci sono oggi non so se si avvereranno o meno, ma non ci voglio nemmeno pensare, perché credo che ancora oggi, al di là di risultati magari non positivi, l'Italia possa essere, insomma, fatta uscire dalle selezioni. Non ci voglio nemmeno pensare. Allora, forza e coraggio, andiamo a fare una grande partita a Murrayfield. Grazie a Giancarlo Dondi e Mauro Bergamasco per essere stati oggi ospiti di Olimpia. Grazie a lei, la saluto. Grazie a voi, buona serata. Olimpia, miti e verità dello sport. Abbiamo sentito pochi giorni fa il boato del Celtic Park, quello che ha accolto in campo a Glasgow l'Inter di Roberto Mancini nell'andata dei sedicesimi di Europa League. Chi passerà il turno lo vedremo solo dopo il ritorno a San Siro, ma intanto quella di Glasgow è stata già una notte speciale per l'atmosfera, le emozioni e anche perché il Celtic ha approfittato dell'incrocio con l'Inter per celebrare il ricordo di un'altra sfida tra biancoverdi e nerazzurri, lontana nel tempo quasi 50 anni, che valse agli scozzesi la loro prima e finora unica Coppa dei Campioni. La rivivremo fra poco, quella storica finale del 25 maggio del 1967 a Lisbona, non prima di aver scoperto qualcosa in più dell'orgoglio Celtic con chi quella gloriosa maglia l'ha indossata e ci ha vinto pure. Massimo Donati, benvenuto ad Olimpia, la città dello sport. Ciao, buonasera a tutti. Massimo Donati, 35 anni, centrocampista, scuola Milan, attualmente al Bari, ha giocato nel Celtic Glasgow dal 2007 al 2009. Una grande esperienza, vero Massimo? Sì, è stata per me un'esperienza veramente significativa e importante nella mia carriera e sono stato molto bene, ero in un posto bello e in una squadra veramente prestigiosa, quindi sono veramente orgoglioso di aver fatto 2 anni veramente intensi con quella maglia. Grande esperienza, appunto, ma anche grandi vittorie, vero? Sì, al primo anno abbiamo vinto il campionato, abbiamo vinto anche la Coppa di Lega e quindi il secondo la Coppa di Scozia, quindi è andata bene, dai, mi sono tolto belle soddisfazioni sia in campionato che in Champions League, anche con il Celtic magari non arriva spesso e volentieri in avanti nei traguardi, invece quel primo anno si è arrivati addirittura agli ottavi con un mio gol decisivo. Una città divisa in due, Glasgow, i Celtic cattolici contro i Rangers protestanti. C'è molta rivalità appunto per questo, perché oltre dal punto di vista calcistico c'è di mezzo la religione, e vediamo che nel mondo si fanno le guerre per le religioni, e lì invece è più sportiva come cosa, ma c'è sempre la religione di mezzo, di conseguenza c'è molta rivalità e non si possono vedere tra le due frange, ecco. Però rimane sempre nei limiti dell'educazione e della tolleranza. Ecco, a proposito di vittorie europee, nel 1967, come poi accadde proprio all'Inter nel 2010, il Celtic Glasgow è la prima britannica a vincere una Coppa Europea, la Coppa dei Campioni, e realizza il triplete, trionfando anche in campionato e in Coppa Scozzese. Immagino, Massimo, che i vincitori di allora siano ancora osannati a Glasgow, come abbiamo visto. Eh sì, lì lo ricordano con grande emozione quell'anno e quei momenti. C'è da dire che ho avuto anche un contatto con una persona che ha vinto quella Champions League e che adesso fa il magazziniere lì al Celtic, ed è una persona splendida che c'ha questo ricordo impresso in testa, e quando lo racconta è veramente da pelle d'oca. E allora, Massimo Donati, andiamo a riviverla insieme quella finale di Coppa Campioni in un afoso pomeriggio del 25 maggio 1967 a Lisbona. Lisbon, Celtic versus Inter Milan in the final of the European Cup. If any British team could win this coveted trophy, it had to be Celtic. Il sole è ancora alto in quel tardo pomeriggio del 25 maggio 1967, quando allo Stadio Nacional di Lisbona scendono in campo la grande Inter di Elenio Herrera e il Celtic Glasgow di Jock Stein. In palio la Coppa Campioni, che i nerazzurri hanno già conquistato due volte, insieme ad altrettante coppe intercontinentali e tre scudetti. Nettamente favoriti gli uomini del Mago e sicuri della propria superiorità. Primo passo verso la disfatta che andava a prepararsi, come ricorda uno dei protagonisti della gara, Sandro Mazzola. Noi eravamo convinti che avremmo vinto, entrammo in campo con questa convinzione, fu un gravissimo errore, perché non avevamo considerato il valore degli avversari e il fatto che noi venivamo da campionati lunghi, estenuanti, coppe, eccetera, e quindi eravamo un po' alla frutta. E dire che la partita si mette bene per l'Inter. Passano pochi minuti e Craig atterra Cappellini in area. Inter Milan looked really dangerous here. Cappellini was brought down by Craig. A penalty. Per l'arbitro tedesco occidentale Takenscher è il rigore che proprio Mazzola trasforma. Inter 1, Celtic 0. With the spot kick, Mazzola made no mistake. Si era messa bene, ma anche quello fu... e dirlo oggi però è la verità, fu negativo, perché a quel punto pensavamo che la partita era finita, con la difesa che avevamo noi ci bastava tamponare, e quindi fu un errore di valutazione incredibile. Gli scozzesi reagiscono, l'Inter è alle corde, come testimonia un altro nerazzurro in campo quel giorno, Mariolino Corso. Dopo il rigore segnato da Mazzola su 1-0 eravamo talmente tranquilli di portarla a casa. Invece ha cominciato a aggredire appunto e giocare in una certa maniera, noi eravamo sicuramente un po' in crisi, poi perché la partita è stata giocata anche il pomeriggio, che faceva un caldo maledetto, però il caldo c'era anche per loro, naturale, e anzi forse era peggio per loro, perché erano abituati a climi diversi, no, però bisogna... Alla fine dei conti hanno meritato, strameritato di vincere. Il vero protagonista della partita diventa allora il portiere nerazzurro Sarti, che si oppone con grandi interventi agli attaccanti biancoverdi. Oh, a great shot, a wonderful save! Oh, a great shot by number 3, Gemmell, and an equally great save. Aveva 3-4 giocatori bravissimi, uno in particolare, uno alla destra, Johnston, che ha fatto disperare tutti. Tanto è vero che il migliore della partita è stato il nostro portiere Sarti, e questo dice tutto sul risultato. È il 62esimo quando arriva il pari di Gemmell. Gemmell scora, great goal! It's done it! Gemmell, a great goal! 17 minutes of the second half gone, and that could be L'Inter è ormai sulle gambe, ancora Mazzola. A un certo punto noi non non c'eravamo più, né dal punto di vista fisico né dal punto di vista di testa, e loro presero in mano la partita. A 7 minuti dalla fine Sarti capitola ancora, stavolta batterlo è Chalmers, 2-1 per il Celtic. L'Inter non ha più la forza di reagire, gli uomini di Stein trionfano, la Coppa Campioni vola a Glasgow. And without a doubt, the European Cup is on its way to Glasgow. Un trionfo che in realtà segnerà la fine di due cicli. Trionfatori anche in Coppa Nazionale e Campionato, i biancoverdi non sono però più riusciti a conquistare finora un altro trofeo europeo, come ricorda proprio Mazzola. Tutti si pensava che potesse essere l'inizio di una storia, però non riuscirono, anche se giocare contro di loro è sempre molto difficile, secondo me, per tutti. Quel KO, unito a quello di pochi giorni dopo a Mantova, che costò lo scudetto a favore della Juventus, segnò poi il tramonto della grande Inter di Herrera e del presidente Moratti, come sottolinea con rimpianto Mario Corso. Penso che sia stata la più brutta settimana mia, diciamo, come calciatore, perché abbiamo perso, ma soprattutto la Champions, perché eravamo talmente tranquilli di vincerla, anche perché eravamo andati in vantaggio, come se andare in vantaggio a quei tempi difficilmente perdevamo. Abbiamo giocato male, abbiamo meritato di perdere, questo per essere sinceri. E poi la delusione, la partita di Mantova è stata una partita tutta particolare, con episodi un po' strani, però credo che eravamo arrivati alla fine, e la l'unica cosa che mi è spiaciuto è che si è arrivati alla fine, perché è arrivato anche la cessione della società dal nostro presidente. Massimo Donati, abbiamo rivissuto con i protagonisti le emozioni di quella finale di Coppa Campioni del 1967 vinta dal Celtic sull'Inter. Toglimi una curiosità, Massimo, davvero chi veste quella maglia una volta resta un giocatore del Celtic per sempre? Eh sì, perché io, nonostante abbia fatto solo 2 anni, sono riuscito addirittura a tatuarmi il simbolo del Celtic sul corpo, e quindi è un qualcosa che ti rimane dentro, perché quando vai alla partita lì è veramente uno spettacolo, quando cantano We Never Walk Alone, oppure quando in tutte le partite che fanno scenografie e canzoni ti fanno veramente sentire bene e a dare di più di quello che magari potresti dare. Insomma, sei quasi riuscito a soppiantare il ricordo di Paolo Di Canio, altro italiano che vestì il biancoverde. No, quello no, perché lui è una leggenda là, anche se lui ha fatto magari solo 1 anno, mi sembra, però è veramente una leggenda lì. Però anche io mi sono tolto la soddisfazione, quando vado lì tutti mi vogliono bene, mi trattano bene, mi ricordo, hanno un bel ricordo di me. Massimo Donati, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Ci mancherebbe, un piacere, buona serata a tutti. Anche per l'appuntamento odierno con Olimpia è tutto, un grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci in podcast dal nostro sito web radio24.it e scriverci alla mail olimpia@radio24.it. Ora spazio a tutti i convocati weekend, Olimpia torna come sempre domenica prossima alle 16:30. Ciao a tutti!